Avevo una speranza bellissima per il mio futuro che si materializzava in Angela. Lei era la mia compagna di classe a cui svelavo i miei segreti più intimi. E lei, derisa dalle sue amiche perché osava frequentarmi, corrispondeva all'interesse. Ovviamente la nostra amicizia era ostacolata non solo dal tipo di abitazioni diverse, ma anche dalla distanza. Quella striscia d'asfalto che separava il mio condominio dalla vita reale era invalicabile. Per questo ogni qualvolta che Remo si recava in paese, io mi univo a lui nella speranza di intravedere durante il mio viaggio il mio amato Angelo. La macelleria di Primo, il padre dell'amata di mio fratello, era un grande e vecchio fondo ricavato da un'ex stalla. Una volta a botte altissima costituiva il solaio che pareva un cielo da cui piovevano letteralmente pezzi di carne di ogni genere di animale. Il banco altissimo poneva ad altezza degli occhi dei clienti altri pezzi di carne. Le pecore di Manzi erano i frequentatori più assidui di quel banco. Sopra troneggiava lui, nella propria regale veste bianca spruzzata ancora di fresco da alcune macchie sanguinolente. In mano lo scettro a forma di mannaia, accanto al re non mancava la sua degna consorte, Regina Cosetta, la quale, se possibile, aveva ancora di più un aspetto austero. Entrambi osservavano gli incauti avventori dall'alto in basso, incutendo una terribile soggezione che obbligava all'acquisto consigliato della regale coppia. Erano rare le nostre visite in macelleria. Il pollaio condominiale ci riforniva sufficienti scorte di carne per i giorni festivi, ma quel giorno mio padre volle fermarsi con la scusa di qualche braciolina. Pensava di instaurare un rapporto amichevole con l'eventuale futuro consuocero. Entrai in quel maniero zeppo di carni, stringendo la mano a mio padre. Un timido saluto di Remo ruppe la tensione e in risposta Cosetta cominciò a tagliare con foga pezzi di manzo sul banco. Dopo l'acquisto di 2 esili tovaglioli di carne, Remo accennò alla situazione dei rispettivi figli. La coppia sopra il banco ascoltò con attenzione il ragionamento di mio padre. Annuivano ripetutamente, intervenendo nei momenti salienti. Alla fine si scoprirono di essere d'accordo su quel tentativo di dissuadere i 2 innamorati a causa della loro giovane età e per il loro bene. Trovai solo che le motivazioni dei 2 genitori erano leggermente diverse, soprattutto nel punto in cui si chiedevano dove avrebbero potuto vivere. Certamente non nella nostra isola. Inoltre, Primo sottolineava come Andrea, nonostante la sua buona posizione professionale, un lavoro così non muore mai, fosse sempre circondato da personaggi poco raccomandabili, come Vittorione, poco convenzionali. Uscimmo con 2 o 3 etti di carne con tanta amarezza. Capivo che Remo avrebbe voluto stimolare Andrea a coltivare quella relazione anche solo per dispetto nei confronti di quella coppia così poco regale, ma alla fine riteneva impossibile quella relazione, anche per lui. Prima di tornare a casa, mio padre doveva espletare il dovere settimanale che aveva nei confronti dell'ispettore cimiteriale. Il giardino, ovviamente, non era di proprietà della mia famiglia, bensì dell'Arcicorfraternita Misericordia, istituzione benemerita di antichissima memoria. La sede di tale istituzione era attigua alla chiesa principale del paese. L'ispettore cui Remo doveva consegnare il registro dei nuovi arrivi era lo stesso parroco, Don Spartaco, il quale, dopo aver avuto cura delle povere anime su quell'intricata sede terrestre, continuava a seguirle ed amministrarle anche nella sede celeste. Questo doppio ruolo non gli impediva di concedersi qualche pausa riflessiva con lo stimato vino da funzione. Velocemente Don Spartaco eseguiva il controllo amministrativo che mio padre redigeva con cura calligrafica. Era quel tipo d'attenzione particolare che gli uomini abituati a lavorare con la terra ponevano per gli atti scritti. Una pagina del registro costava a Remo più sudore dello scavo di 3 fosse. E quella cura meticolosa nel riempire correttamente le caselle dove indicavano il nome, la professione, l'ex residenza e la data di partenza dei nuovi arrivati. Tradivano il passato contadino di mio padre. D'altronde Remo cambiò solo in parte il mestiere, solo che adesso scavava la terra senza sperare che vi potesse crescere qualcosa. I semi che vi gettava con una sorta di appassionato distacco non concedevano alcuna speranza di fioritura e tantomeno producevano l'impressione che la vita avesse un suo corso logico. L'appuntamento con l'ispettore era sempre rapido. Don Spartaco sfogliava velocemente l'enorme registro, si informava sullo stato dell'altare della cappella centrale, orgoglio di tutto il giardino, e l'incontro si concludeva sempre con l'abituale richiesta di Remo sull'inizio dei lavori della nuova abitazione del custode, alla quale Don Spartaco rispondeva con la solita solenne alzata di spalle carica di speranza per il futuro. Sulla strada di ritorno sorgeva il circolo più frequentato del paese, dove Remo sporadicamente si soffermava per un bicchierino di buon vino. Gli avventori, in maggioranza anziani, erano abili nell'instaurare qualsiasi conversazione sugli argomenti più disparati, purché si concludesse con una salutare alzata di bicchieri. Dopo il brindisi finale, tra una partita a carte e l'altra, la fatidica richiesta a Remo: fai in modo di allontanare Vittorione dal cimitero. Vittorione, per giungere al mio giardino, attraversava tutto il paese in sella alla sua bicicletta da donna. Questo sgangherato mezzo di locomozione, Vittorione lo aveva personalizzato, decorandolo con corone di rosari arrugginite, crocifissi strappati ai defunti esumati. Quel decoro costituiva una sorta di promemoria dei servizi svolti al cimitero, come un pilota in guerra segna sulla carlinga del proprio caccia gli aerei nemici abbattuti. Il risultato era indimenticabile. Immaginatevi un manubrio di una bicicletta da cui pendevano tanti piccoli crocifissi, legati da fili di semi che componevano un mosaico di rosari impossibili da usare. Sopra il fanale, legato alla meglio con del fil di ferro, si ergeva una testa di Cristo che, come una triste sirena di una prua di una nave destinata a solcare temibili mari, doveva affrontare i continui schizzi provocati dall'interminabile pozze sul selciato. Il porto che ospitava quella fantasiosa bicicletta era sempre il mio giardino. Ogni passaggio della nave in paese causava tumulti. Vittorione non perdeva occasione per inveire sui compaesani, lanciando terribili maledizioni. Tanto vi aspetto tutti là. Con quella voce roca e sinistra che Vittorione tirava fuori per emettere le sue sentenze, provocando inevitabili reazioni scaramantiche e offese nei suoi confronti condite da bestemmie di tutti i generi. Incurante, Vittorione vomitava tutto il suo rancore e lo schifo che provava verso la perdita di dignità ed identità che a dir suo ormai avevano subito tutti gli abitanti di quel paese. In particolare coltivava una certa antipatia nei confronti degli ex contadini arricchiti e del parroco, emblema più alto dell'ambigua natura umana. Quella volta al circolo, l'insistenza della gente nel convincere Remo ad allontanare Vittorione si rese più forte. Niente valevano le motivazioni che mio padre forniva, dettate dalla necessità della situazione, e che Vittorione comunque era un buon uomo. Le ragioni della gente mi parevano solo mosse da remore personali, prive di qualsiasi vero motivo, per cui Vittorione non sarebbe dovuto più entrare in quel luogo considerato inviolabile. Non comprendevo allora perché tutta la mia famiglia dovesse addirittura viverci. I dubbi che mi sorgevano rendevano più interessante la figura di Vittorione e con curiosità mi accingevo a conoscere meglio quello strano personaggio da tutti considerato matto. Tornati a casa, trovai mia madre intenta a stirare la biancheria. Il tavolo rialzato che Remo adoperava come piano lavorativo, stavolta era usato da Bianca come asse da stiro. La poca luce che attraversava la piccola finestra costringeva mia madre ad accendere la luce artificiale, rappresentata da una buffa lampada a carrucola con la possibilità di variarle l'altezza a seconda delle esigenze. Alla fine della lampada era appesa una striscia di carta moschicida, strumento di tortura per ogni insetto volante. Il vapore di quel vecchio ferro da stiro creava un'immagine dal sapore espressionista addosso a quella donna curva sulla biancheria. Troppo triste da osservare quel quadro, quindi uscii da mia nonna alle prese con alcuni mazzolini di fiori. L'esterno del mio piccolo appartamento era interamente senza intonaco. Nude pietre di forme diverse costruivano l'intero edificio. Se non fosse stato per la localizzazione particolare, la casa poteva essere un'anonima casa colonica di campagna. Tale colonica era immediatamente posta a destra dell'entrata del giardino. All'interno si accendeva, salendo tre piccoli scalini di pietra. Al lato vi era una pompa meccanica con acquaio funzionante da vetrina dei mazzolini di fiori. Di fronte, sul lato sinistro del cancello, sorgeva un'altra costruzione simile ma con un uso leggermente diverso. Era la cosiddetta stanza mortuaria. Definizione da me poco comprensibile. Capivo la sua funzione. Ospitava i nuovi arrivati in attesa di sistemazione definitiva, ma visto che esternamente era indistinguibile dalla mia residenza natia, mi ostinavo a non chiamarla con quel tetro appellativo. Cominciai ad aiutare mia nonna mentre uscì allo scoperto Tobia, la tartaruga del giardino. Quel mio vasto giardino era popolato da molte razze di animali. Oltre ai polli nascosti vi erano svariati esseri viventi: lucertole, topi, serpi, gatti e sporadicamente cani randagi in cerca di asilo. Famiglie d'animali contrapposte alla mia vivevano in quello strano giardino e ad ogni entrata di visitatore essi scomparivano senza lasciare traccia. Tobia si era aggiunto improvvisamente agli altri abitanti, un giorno comparendo dal nulla in mezzo alle due tombe più vecchie. Aurelia, mia nonna, era convinta che Tobia fosse appartenuto alla signora residente nella tomba su cui si era trovato e che le facesse visita periodicamente come qualsiasi altro parente. Sulla signora in questione esisteva una leggenda, sempre a detta della nonna. La signora era stata sepolta con un guanto in meno. Tale guanto, nero e lungo fino al gomito, calzato ancora dal braccio, vagava nei pressi delle cappelle del giardino nei giorni di pieno sole alla ricerca di Tobia. La leggenda era confermata dalle mie sorelle, che giuravano di aver visto il braccio inguantato salire le scale della cappella centrale in un caldo pomeriggio estivo. Tutto ciò lo considerava fonte di ulteriore divertimento, una fiaba noir che per scenario aveva praticamente casa mia. Nessun altro poteva ritenersi tanto fortunato di vivere in un luogo da favola. I personaggi fantastici erano i miei compagni di gioco. Quel mondo non mi appariva carico di dolore come agli altri. Non avevo posto confini tra il corso della vita e la morte. Una lunga linea retta. Nessun elemento di caos. Nessun dolore.